Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Raggiungiamo al telefono cellulare, come facciamo ogni settimana, il presidente dell'Adico, Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko, un saluto a tutti. Sottolineo questo aspetto del collegamento, che insomma è abbastanza evidente, perché proprio di cellulari parliamo, non del tuo, non del mio, ma di un telefono di un signore residente a Mestre che si è rivolto a voi perché ha avuto problemi, in questo caso non con il gestore della telefonia, ma con l'azienda produttrice proprio del telefono fisico. Sì, una vicenda amico che l'Adico ha voluto seguire molto da vicino, perché per un problema banale, che poi alla fine tanto non è, e lo andiamo anche un attimino a spiegare, è emerso invece una situazione del tutto nuova, quella che per esempio l'Adico ad oggi sta ancora faticando a trovare l'ufficio legale della, in questo caso parliamo di cellulare e parliamo per appunto della Nokia, che risulta praticamente non esiste neanche in Italia, non risulta in Italia se non quelli che sono i centri di assistenza autorizzati per queste problematiche. Una cosa però è l'assistenza, un'altra cosa è l'ufficio legale. Questo signore allora aveva questo cellulare difettoso che, essendo in garanzia, poteva essere cambiato. A chi si è rivolto? Sì, allora innanzitutto a questo signore è capitata una cosa che può capitare frequentemente a tanti ascoltatori, che il cellulare era nuovo, ha cominciato a mal funzionare dopo un po'. Il signore l'ha portato presso assistente autorizzato e ha fatto mettere per iscritto che lui aveva bisogno che venisse nel ripristinare, non venissero smarriti quelli che erano i dati che aveva dentro e la conservazione dei contatti, perché era una persona che si occupava di affari e quindi ci teneva che questa cosa andasse in questo modo. E purtroppo è capitato che quando è andato a recuperare il cellulare, questi purtroppo gliel'hanno completamente resettato, quindi ha perso e smarrito quelli che sono tutti i dati, a tal punto che il signore non ha voluto accettare neanche un telefono sostitutivo, perché a questo punto ha deciso a far valere le proprie ragioni e a volersi riconoscere quelli che sono i disagi che sta sopportando in questi giorni e diciamo anche in questi mesi per effetto dello smarrimento di tutti i dati che ha conservato nel tempo. Dunque si è rivolto a voi per avere assistenza, perché lui aveva chiesto questa cosa specifica, appunto il salvataggio dei dati inseriti, la rubrica soprattutto e altre informazioni, invece si è trovato praticamente senza. Quindi voi come avete proceduto? Noi quindi abbiamo fatto intervenire l'ufficio legale, poi ha mandato una diffida una volta che la persona si è rivolta all'ufficio legale dell'Adico, abbiamo come al solito stilato la diffida e da qua ha cominciato l'odissea, perché sostanzialmente a queste raccomandate che noi spedivamo alle Nokia, queste continuavano a tornarci puntualmente indietro. Tutti gli indirizzi possibili che l'Adico ha voluto consultare ed è uscito a consultare non sono stati utili, addirittura è stata fatta una visura camerale per cercare di trovare uno sbocco a questa situazione. Il signor Nogetto si è dato anche molto da fare, perché comunque anche lui ci ha dato una mano a intracciare quello che poteva essere un qualsiasi indirizzo, luogo dove poter far capitare questa raccomandata, ma ad oggi tutto è rimasto sopra il tavolo, perché gli unici a rispondere sono i centri di assistenza o la Nokia Co, che è una società in Italia che si occupa sostanzialmente dei problemi legati alla garanzia, ma che di fatto non è la responsabile legale della Nokia in Italia. E quindi alla fine non c'è un interlocutore con cui parlare? In questo momento da parte nostra dobbiamo evidenziare come in Italia non esiste ancora un ufficio legale della Nokia, o meglio, fino ad ora non siamo riusciti ancora a scoprire dov'è. Certo, è vero che alla vicenda non si è neanche risolta bene, perché il signore ha un telefono sostitutivo, non gli vuole essere riconosciuto quello che è disagio, che per effetto di questo smarrimento dei dati sta subendo. Stiamo valutando con gli uffici come procedere, se in giudizio o meno. Certo è che è anche un'occasione per ricordare agli ascoltatori un po' come la garanzia opera quando accadono dei difetti durante l'acquisto di un prodotto, è che, e io sottolineo sempre, Mirko, come l'interlocutore nei 2 anni di durata della garanzia deve essere solamente e sempre il venditore, non sono i centri di assistenza interlocutore ai quali i consumatori devono rivolgersi quando hanno questi problemi. Lì dove lo avete comprato, lì vi dovete rivolgere ovviamente documentati dello scontrino e eventualmente della confezione originale. Guarda, amico, ti dirò in maniera anche semplice, come hai detto giustamente anche tu, se una persona viene all'Adico che si lamenta che un centro assistenza sta conservando un apparecchio in garanzia da 3-4 mesi, noi diremo vai al centro assistenza, lo porti dal venditore, perché sappiamo che il periodo ragionevole per ripristinare un bene che presenta un difetto deve essere rivolto a chi ce l'ha venduto e non a chi è responsabile dell'assistenza dello stesso. Questo è un consiglio ovvio, poi speriamo non si arrivi, come il caso di questo signore di Mestre, a cercare le vie legali magari senza avere un interlocutore. Avremo, spero, aggiornamenti più in avanti su questa vicenda. Nel frattempo ci diamo appuntamento la prossima settimana con altri 2 argomenti insieme all'Adico di Mestre, associazione difesa consumatori.it. Grazie al presidente Carlo Garofolini, buon proseguimento. Grazie a te, amico, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.